delizioso col ricordo del mio cuor. Voglio ritornare nel passato per provare la felicità. Partirò col treno del mio sogno che mi porterà laggiù, in un luogo mai dimenticato dove c'è l'amore per me. Sento che già questo treno sbuffa verso il ciel sereno, forse dolcemente andremo e lontano si giungerà. Questo viaggio un po' sentimentale accompagna tutti voi. È una corsa che bisogna fare quando c'è l'amore lontano.